C'è ancora tanta gente che ritiene che il Vangelo sia semplicemente un libro di meditazione. Invece il Vangelo è un grande libro di preghiera, di meditazione, è un grande libro di vita, ma di vita concreta. Prendete per esempio questo brano di Matteo, capitolo 7, versetto dal 13 al 20, che si avvia verso a concludere il grande discorso della montagna che ci ha accompagnato in queste settimane di Quaresima. Ci viene dato una indicazione su come fare delle scelte nella vita, perché lo sappiamo, no? Che sono le nostre scelte, che assieme alle scelte degli altri, che assieme agli avvenimenti della vita, però preponderantemente sono le nostre scelte che fanno la felicità o l'infelicità della nostra vita. Per esempio, ci sono tante famiglie che patiscono le scelte sballate dei propri figli, delle compagnie sballate che hanno scelto e che poi determinano l'infelicità di tutta una vita. Ci sono ancora famiglie che soffrono e patiscono per una scelta sbagliata dello sposo o della sposa. Me l'aveva detto la mia mamma che non andava bene quel tipo lì, ma io ero convinta di cambiarlo. Ho conosciuto persone, forse qualche anno fa, perché adesso è girato il vento, che quando le banche hanno cominciato a non dare più niente, si sono messi nelle mani di faccendieri che garantivano rendite iperboliche. Poi incontro una persona e dice: "Don, io ho perso 70.000 euro". Vuol dire che ce li avevi da investire e li hai investiti male. Io credo, per fare questi esempi, ma potremmo moltiplicarli, che se in queste scelte coloro che hanno fatto delle scelte sbagliate avessero tenuto presente il Vangelo di oggi, cioè che devi scegliere non ciò che è più facile, non ciò che è più comodo, perché è una strada che porta alla perdizione, ma devi scegliere la strada che porta al bene, e che spessissimo è stretta, in salita e faticosa. Devi scegliere dei veri profeti, non dei falsi profeti, che ti promettono. Tra l'altro, se tu fossi stato attento al Vangelo, avresti scoperto che quelle percentuali di guadagno che ti davano non erano morali, fossero state anche vere, che poi erano false. Se avessero letto bene il Vangelo di oggi, si sarebbero orientati su un criterio fondamentale: ma che frutti mi danno? Perché se un albero mi sembra bello ma mi dà frutti velenosi, è un albero sbagliato. Nello stesso tempo io penso che il Vangelo, a patto che diventiamo familiari col Vangelo, oggi chi dice più delle mamme la porta, la via larga, la via stretta? Quando io ero bambino in casa mia si dicevano queste cose. Da dove si erano imparate, se non in parrocchia, da una catechesi anche per gli adulti, anche per gli educatori, che era tutta intrisa di Vangelo più che non di psicologismi. Oggi è difficilissimo sentire e ragionare in questa maniera, ma questo dei frutti credo che ci fa capire anche delle persone che magari noi giudichiamo lontane da Dio, lontane dalla parrocchia, e poi ti fanno dei frutti straordinari. Come la mettiamo? Come la mettiamo? Io la metto col Vangelo. Non perché uno va all'oratorio, è un buon partito per una ragazza, non perché uno va in parrocchia, è una persona onesta, necessariamente, speriamo, in un caso e nell'altro, ma devo vedere i frutti. È un criterio molto semplice, molto facile, e ce lo porta il Vangelo. Ringraziamo dunque il Signore che ci ha dato la sua stessa persona, come traspare, come annunciata dal Vangelo, come criterio di orientamento. Le scelte, amici, le scelte sono fondamentali per la felicità o il fallimento di una vita.